Controcorrente. Leggo nella Bibbia, in Seconda Cronache, capitolo 18, versetti 12 a 17. Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così: «Tutti i profeti, a una voce, predicono del bene al re. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro. E predici del bene». Ma Micaia rispose: «Com'è vero che il Signore vive, io gli dirò quello che il Signore mi dirà». Quando giunse davanti al re, il re gli disse: «Micaia, dobbiamo andare a far guerra a Ramoth di Galaad o no?» Egli rispose: «Andate pure, vincerete. I nemici saranno dati nelle vostre mani». E il re gli disse: «Quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità nel nome del Signore?» Micaia rispose: «Ho visto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E il Signore ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua». Il re di Israele disse a Giosafat: «Non te l'avevo detto che costui non mi avrebbe predetto nulla di buono, ma soltanto del male?» È più facile adeguare il proprio pensiero alla maggioranza che difendere le proprie idee accettandone le conseguenze. Andare controcorrente può portare ad essere derisi o messi da parte. In talune circostanze può addirittura costare la vita. Ne sa qualcosa Micaia, che si trovò a dire la verità al re di Israele, predicendone la morte. Mentre tutti gli altri 400 profeti, spiritualmente compromessi, predicevano il bene al re. Il messaggero aveva dato un consiglio che conosciamo fin troppo bene. E la solita tentazione di unirsi al coro, di rimanere nell'anonimato, rinunciando al proprio messaggio per cercare un accomodamento della verità che faccia contenti tutti. Perché Micaia doveva rovinare la festa? Gli altri profeti del re Acab erano abituati ad assecondare il re, predicendogli ciò che egli voleva sentirsi dire. Quindi furono facilmente ingannati da uno spirito di menzogna permesso da Dio. Ma Micaia non aveva mai predetto nulla di buono ad Acab, un re malvagio e senza alcun timore di Dio. Per questo il re si accorse subito dell'umorismo di Micaia, quando egli si presentò davanti a lui fingendo di essere allineato alla predizione degli altri profeti. E allora Micaia disse come stavano le cose, né più né meno. Viviamo in un mondo in cui molti cristiani hanno scelto di accomodare la parola di Dio al pensiero dominante. D'altra parte, comportarsi come Micaia può costare caro. Si è molto più popolari quando si dice alle persone ciò che vogliono sentirsi dire. «Continuate pure così! Dio vi benedice! Diventerete ricchi! Non vi accadrà mai nulla di male!» Quanti predicatori amano predicare messaggi di questo tipo alle persone piuttosto che invitarli a ravvedersi e a cambiare le proprie vite? Quante volte abbiamo sentito anche noi questo ritornello nella nostra testa? Che te lo fa fare? Dagli quello che vogliono. Vivi e lascia vivere. Vale la pena farsi dei nemici? Sarebbe più facile ascoltare quella vocina, vero? Il compromesso può essere una forte tentazione. Ma come Micaia siamo chiamati a dire solo ciò che il Signore ci dirà. Forse non piaceremo a molti, ma potremo essere strumenti nelle mani di Dio per salvarne almeno alcuni.